vacanze calde brevi, raggi come nuvole che il vento disperderà. Quando il cielo di settembre scolorirà ogni cosa, vivremo i nostri giorni all'ombra dei ricordi. Amore, io ti conosco appena, già ti devo dire addio, non ci vedremo. Thank you.